voglio il giorno anche di notte, luce ed oro, croci e margherite multicolore, donne con il sorriso di Dio, cantare attorno ai legni delle chitarre. Voglio guardare la terra senza toccarne le ali, nel saluto dei maggiolini, e ragazze che si sciolgono i capelli liberi e correre via dove il sole le chiama. E mai, mai, mai più neon e lustrini nucleari per processioni di vanità nelle fiamme fredde di solitudine radioattiva.